in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini. Alle 7, quasi 37 minuti iniziamo questa rassegna stampa. Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi ovviamente c'è molto di Covid e dei semafori regionali, rosso, giallo o arancione che sia, ma vediamo, iniziamo da Sole 24 Ore. Crisi Covid, manovra da 38 miliardi, il titolo di apertura. Lunedì prossimo l'esame al Consiglio dei Ministri, poi l'arrivo alla Camera, dice il Sole. CIG in deroga fino a giugno, plafond da 5,3 miliardi per quella ordinaria. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, alta velocità ferroviaria Napoli-Bari, ultimo bando da 1,5 miliardi. Da Napoli a Bari meno di 2 ore di treno contro le circa 4 di oggi. L'alta velocità Napoli-Bari fa un passo decisivo. È stato infatti pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale Europea il bando di gara per l'ultimo lotto della linea. Sono 28 chilometri di rete ferroviaria italiana tra Irpinia e Orsara, un investimento da 1,5 miliardi. E poi ne scrive Marco Morino a pagina 12. Dalla prima del Sole voglio anche segnalare poi l'inchiesta di Genova, autostrade pronta ad azioni legali verso dipendenti ed ex manager, e poi l'inserto food come ogni sabato, le pagine dedicate al cibo e all'agroalimentare. Con il lockdown, leggiamo, tornano a crescere i consumi di cioccolato, insomma un bene rifugio, mettiamola un pochino sul ridere, vista la situazione, insomma cerchiamo di allietarci. Corriere della Sera, si allarga la zona rossa antivirus, il titolo di apertura. La giunta di Campania e Toscana, le regioni arancioni diventano 9 ed ecco i nuovi divieti. E andiamo poi tra poco a vedere un pochino più nel dettaglio alcuni di questi divieti, perché sono i più diversi e ci sono anche molti commenti sui giornali oggi sul tema dei divieti e delle libertà, diritti e doveri in contrasto. Uno sceriffo senza stella, ne scrive Antonio Polito, e il riferimento è ovviamente al governatore della Campania De Luca, la notte in cui De Luca si perse. E nello specifico qualche passaggio di questo articolo che troviamo poi a pagina 5. Il punto di rottura della sua strategia è arrivato quando non se l'è sentita di chiudere tutto. La notte della rivolta di piazza sotto la sede della regione, la notte in cui il governo non vide il bluff e lo avvisò che se la chiusura la decretava lui da solo non sarebbero arrivati i ristori e la polveriera a Napoli sarebbe saltata. Il giorno dopo fece marcia indietro, sperò in Dio, sperò in un nuovo colpo di fortuna come in primavera, quando la Campania era stata miracolosamente risparmiata dall'epidemia e lui se n'era attribuito il merito. Ma la storia, si sa, di solito non si ripete, e oggi a Napoli il 118 è diventato un numero della smorfia, sta per quello che non risponde. Su Facebook si organizzano cacce alla bombola, anche vuota, di ossigeno, le farmacie ne sono prive, i triage dei pronto soccorso si fanno tra le auto in fila e le persone non solo muoiono in ospedale, accade spesso, purtroppo accade sempre, ma devono subire anche l'ennesimo oltraggio alla loro dignità di una presa video che fa il giro del web. In Campania, più che altrove, il sistema delle classifiche su base regionale adottato dal governo ha mostrato il suo limite. Napoli città e il Casertano avrebbero dovuto chiudere da settimane. L'Irpinia e il Beneventano non meriterebbero di essere chiusi nemmeno oggi. Ma come per il pollo di Trilussa, la statistica ha dato un R conti ingannevole e così la farsa è continuata. Roma scaricava su De Luca, De Luca su Roma. E solo qualche passaggio di questo articolo di Antonio Polito che vi ho letto dal Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera segnalo anche, appunto, come dicevo prima, qualche approfondimento sui divieti che entrano in vigore. Ne scrive Fiorenza Sarzanini, pagina 3. Strade e piazze, anche se a livello nazionale non è previsto in moltissimi comuni, non sarà possibile camminare liberamente per il centro storico. Scattano ingressi contingentati a Roma, Napoli, Bologna, Benevento, Torre Annunziata. Vietato passeggiare anche nelle città e nei paesi di Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia. A Bologna niente manifestazioni ed eventi, comprese le esibizioni degli artisti di strada. Fino al 22 novembre a Perugia è chiusa la scalinata della cattedrale di San Lorenzo. Nel fine settimana a Genova è interdetto il lungomare. A Catania c'è il divieto di stazionamento a Piazza Duomo e nel Borgo Marinaro. A Livorno non si entra né Romei Moletti. E via via, prosegue Fiorenza Sarzanini, in Veneto rimane il divieto di consumare cibo e bevande dopo le 15 se non si sta seduti al tavolo, anche se i locali possono chiudere alle 18. A Verona e Pesaro scatta il senso unico nelle vie pedonali, a Cittadella, in provincia di Padova, divieto di fumo in strada. C'è un bel prontuario, ma certo c'è anche da andare in giro con ordinanze in tasca per poter muoversi nelle città di questi tempi. Mi stupisce soprattutto la questione dei centri storici, come se uno che ci abita, quindi costretto a stare in casa. Allora, La Repubblica, mezza Italia in zona rossa, un piano per salvare il Natale. Chiuse anche Campania e Toscana, lockdown leggero per 26 milioni, arancioni Emilia, Friuli e Marche, il governo studia l'ipotesi di allentare il coprifuoco nelle feste. Manovra altri 4 miliardi alle aziende in crisi e poi chiosa Repubblica, ospedali al collasso, ma l'indice di contagio scende a 1,4. Ed è una buona notizia, certo non è definitiva. Da Repubblica, prima della viabilità, passo alla questione Calabria. Se ne scrive a pagina 10, in Calabria gelo sull'ipotesi di Strada, inteso come Gino Strada, commissario. Dopo Conte nessuno si è più fatto sentire, scrive Alessia Candito. E allora andiamo a vedere. Tutti parlano di lui, ma da domenica nessuno parla con lui. Doveva essere la ciambella di salvataggio necessaria al governo per tirarsi fuori dal pantano politico del commissariamento della sanità calabrese, ma del coinvolgimento di Gino Strada in Calabria nessuno ha più saputo nulla. A quanto pare neanche il diretto interessato. Da domenica nessuno si è fatto sentire, dicono dal suo entourage. Eppure il fondatore di Emergency si era detto pronto, confermano i suoi, a dare una mano anche in Calabria. Unica condizione: non verrà a fare la foglia di fico. A lui, da tempo candidato dalle Sardine alla gestione della sanità calabrese, il governo aveva pensato dopo lo scivolone dell'ex commissario, il generale Saverio Cotticelli, inciampato su un'imbarazzante intervista televisiva, salvo poi preferirgli il manager sanitario di lungo corso e uomo di Leo, Giuseppe Zuccatelli, subito travolto dalle polemiche per un vecchio video in cui disquisiva sull'inutilità delle mascherine. Risultato: il nome di Strada è tornato in auge come responsabile Covid in Calabria e l'ipotesi era concreta. Domenica c'è stata anche una telefonata tra il medico e il premier Conte, che in una intervista alla stampa ha anche confermato i contatti, e poi però appunto sta andando come sta andando e il commissario Strada non è commissario. Così Repubblica, pagina 10, dicevamo, andiamo alla stampa. La stampa, De Luca, governo di sciacalli, l'ira del governatore per la campagna rossa. Il virologo Pregliasco dice: feste sì, ma senza nonni. Insomma, questo delle feste con i nonni o con i nonni o con i figli, perché insomma si deve scegliere tra i due a quanto pare, è un tema molto discusso. Su La Stampa c'è anche la lettera di Alice, Elena e Sofia, tre studentesse liceali, che scrivono alla ministra Azzolina: cara ministra, riapri le scuole. Ci fermiamo per un attimo, torniamo però sulle pagine della Stampa tra pochissimo. In primo piano. Allora, vi dicevo, restiamo sulle pagine della Stampa. Abbiamo visto tanto Covid e ne vedremo ancora tantissimo nelle prossime prime pagine che vi leggerò, ma voglio leggervi anche qualche altro approfondimento su altri temi. Molto interessante quello che propone la Stampa, pagina 13, firmato da Monica Perosino: i norvegesi contro i pozzi, stop ai soldi del petrolio. Dunque, cosa accade? Guance arrossate, maglioni di lana spessa, trecce bionde, occhi sorridenti che spuntano dalle mascherine. Emma, Thor, Andreas entrano ed escono dalla Corte Suprema di Oslo. Sono poco più che ragazzini, ma sono riusciti nella grande impresa. Hanno trascinato la Norvegia in un'aula di tribunale. Vogliono fermare le nuove perforazioni petrolifere nel mare di Barents, la principale fonte di ricchezza del paese, e lo vogliono fare appellandosi ai diritti sanciti dalla Costituzione, che protegge l'ambiente e il nostro futuro. di fatto, ancora prima della sentenza, attesa per fine dicembre, hanno segnato un punto a loro favore, hanno spinto il cosiddetto paradosso di Oslo davanti a 19 giudici, in quello che la stampa norvegese definisce il caso del secolo. L'articolo 112 della Costituzione norvegese stabilisce infatti che ogni cittadino ha diritto a un ambiente naturale che salvaguardi la salute e nessuno, come i paesi nordici, prende più seriamente l'impegno contro i cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, la ricchezza della Norvegia si basa sull'estrazione di petrolio e di gas, di cui è primo esportatore europeo dopo la Russia. È il petrolio che a partire dagli anni 70 ha trasformato un paese di pescatori in una superpotenza economica. Ecco il paradosso. Sarà dunque la Corte Suprema che dovrà decidere se la Norvegia tradisce i propri principi costituzionali e, dicono i giuristi, l'esito non è per nulla scontato. La Norvegia potrebbe essere costretta a eliminare gradualmente le attività di esplorazione petrolifera, pietra angolare della sua economia. È tutto iniziato con i ragazzini di un'associazione ambientalista, Natur Og Ungdom, che vorrebbe dire natura e giovani, ovviamente norvegese non è la mia lingua, che si sono alleati con l'associazione dei nonni contro il cambiamento climatico e Greenpeace Norvegia. L'età media dei membri di NU è 17 anni, ma il consenso sulla battaglia che stiamo portando avanti è trasversale, dice un Andreas Randoni, 23enne, vicepresidente di questa associazione. Ed è una grande battaglia anche per, diciamo, evitare questa schizofrenia norvegese. Andiamo sulle pagine del giorno. Emilia Marche Toscana retrocesse, questo è il titolo di apertura. Le prime due diventano arancioni, la terza rossa, declassata la Campania, gialle Lazio, Veneto e Sardegna, Molise e provincia di Trento. Timidi segnali positivi dai contagi, economia, ecco la bozza della manovra anti-Covid, fino a 40 miliardi di nuovo debito pubblico. Dalla prima del quotidiano nazionale, e nello specifico io in mano il giorno, gli studenti contro la DAD, ridateci gli anni più belli, un tema che ritroviamo su tutti i quotidiani oggi. Degrado e dramma, donna precipita dal balcone e muore, qui entriamo nello specifico di Milano, e poi la vicenda di un agricoltore che sconfigge l'Unione Europea in tribunale, lui è di Pozzo d'Adda, la vicenda riguarda un pezzettino di terra con degli errori che erano stati fatti. E beh, è molto interessante, se volete leggerlo, è stata un'odissea questa dell'ultimo agricoltore di Pozzo d'Adda, assolto dall'accusa di avere raggirato l'Unione Europea perché percepiva dei contributi per questo fazzoletto di terra che gli era stato invece espropriato, ma l'esproprio poi era stato compensato altrove. Insomma, una questione complicatissima che si è trascinata e finalmente conclusa, e l'uomo ha la fedina penale pulita, diciamo. Andiamo ad Avvenire. Col rosso si frena, questo è il titolo che riguarda i nuovi contagi che superano quota 40.000, ma la foto notizia è quella dei migranti annegati nelle ultime ore, tortura o morte sulla sponda libica. Oltre 100 morti, 5 naufragi, altrettante operazioni di soccorso in meno di 2 giorni. Le notizie che arrivano dall'altra sponda del Mediterraneo sono sempre più drammatiche, ma la parte che sottolineo è questa che segue. La guerra civile prosegue, le milizie ne approfittano per gestire i centri di detenzione e le partenze dei rifugiati verso l'Europa, mentre arriva la riprova dei respingimenti illegali verso i campi di tortura operati con il concorso delle agenzie dell'Unione Europea. L'approfondimento poi è di Nello Scavo, a pagina 9, che appunto racconta esattamente le ultime ore nel Mediterraneo. Ecco qua il passaggio. L'agenzia europea aveva negato in passato contatti diretti con Tripoli, sostenendo piuttosto di trasmettere le informazioni ai centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e Roma. Ieri invece l'organismo diretto dal francese Fabrice Leggerie ha precisato di aver allertato tutti i centri di soccorso nazionale. 102 persone sono state soccorse dalla Guardia Costiera Libica. Purtroppo 2 corpi sono stati recuperati, questi sono virgolettati. Dopo il soccorso, i superstiti sono stati gettati nei campi di prigionia governativi a Homs, da cui le agenzie ONU chiedono che vengano immediatamente rilasciati, ma per uscire dovranno affrontare il consueto girone di sevizie e schiavitù. E questa una delle contraddizioni più forti: soccorsi in mare per essere condannati a torture, stupri e sevizie. Anni senza soccorsi coordinati, anni senza adeguate vie sicure, anni che si considera inevitabile che le persone muoiano in mare. Si può evitare? Cosa si aspetta? Domanda Carlotta Sami, che è la portavoce del UNHCR, quindi le Nazioni Unite per i Rifugiati. Andiamo a Libero. Vietato vivere, questo è il titolo a tutta pagina. Tra una proibizione e l'altra non si campa. E siccome il tempo scorre, vado rapidamente a leggervi alcuni passaggi dell'articolo di Filippo Facci su questo tema. La vera minaccia alla nostra libertà proviene, siamo a pagina 3, la vera minaccia della nostra libertà proviene da una declinazione distorta della libertà stessa. Non abbiamo più margine individuale a fronte della proliferazione proprio dei diritti individuali. Il diritto alla salute su tutto, ma questo dopo che un insieme di minoranze ha oppresso sempre nuove maggioranze per via dei diritti del cittadino, del consumatore, del bambino, dell'alunno, dell'anziano, del pedone, dell'automobilista, del ciclista, del turista, dello sportivo, del disabile, del militare, del teleutente, dell'ascoltatore, del lettore, dell'ambientalista, del cacciatore, di chi vuole essere armato e chi esige che la gente sia disarmata, di chi vuole fumare e di chi non vuole il fumo altrui, sinché a un certo punto tutti i diritti hanno finito per elidersi a vicenda e il lockdown mondiale da coronavirus ci ha dato la mazzata finale. Allora, ironico, ma vale la pena riflettere, Filippo Facci su Libero. Il giornale, sceneggiata napoletana, questo è l'ultimo titolo che riesco a leggervi, anzi no, oltre a questo Conte chiude tardi la campagna, De Luca cambia linea e perde la testa. L'ultimo sarà quello del manifesto, molto divertente, al di là della fotonotizia fumata rossa che riguarda la chiusura delle regioni, molto divertente è la Cina riconosce Biden prima di Trump. E così ci salutiamo, ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare, ora c'è GR24.